Due spunti di riflessione. Il primo, se ascolto, rileggo le tre letture, trovo un tema di fondo, la presenza di Dio, la presenza con la benedizione sacerdotale, stabilisce un popolo, la prima lettura. La presenza manifestata nel volto e nel nome di Gesù. La presenza che si fa, come dire, interiore a ciascuno di noi che ci diciamo credenti, come dono dello Spirito di Dio. Allora la maternità di Maria è l'evento che consente la manifestazione della presenza obbediente di Dio agli uomini. È come se Dio obbedisse a se stesso, perché non vuol mollare gli uomini. Una piccola nota per noi. È un motivo di consolazione perché ci sentiamo benedetti da Dio. È un motivo di gioia di essere credenti in un Dio che mi guarda. Discorso del volto. Che mi chiama e mi chiama per nome. Così come lo ha fatto per Gesù. Il secondo motivo di riflessione è la pagina del Vangelo, che è di una tenerezza, di uno stupore, di una fiducia grande, per non dire immensa. Soprattutto è descritta la realtà dell'evento di una nascita promessa, annunciata, desiderata, aspettata e che però contemporaneamente diventa anche motivo di conflitto. Provo velocemente a offrire alcune sottolineature. Ciò che colpisce, almeno a me pare, ciò che colpisce in questo passo del Vangelo di Luca non è l'annuncio dato agli angeli della nascita del Salvatore, del Messia. Colpisce piuttosto chi sono i destinatari di quegli annunci, i pastori. E perché i pastori? Beh, voi lo sapete come in Israele al tempo della nascita di Gesù c'era una quantità di gente, diremmo, più adatta, più pensosa, più istruita, più potente, più ricca, per ricevere e capire al volo la notizia dell'arrivo del Messia. E lì hanno fatto tutte le loro immaginazioni. C'erano una quantità di, come dire, di gruppi, di sette, no, sette è un brutto termine, non si dice, ma comunque di gruppi diversi, di teologi diversi. C'erano gli Esseni, i Farisei, i Conramiti, che erano lì e che aspettavano il Messia, anzi ne aspettavano due. In ogni caso c'era molta gente per bene, gente pia, che si trovava nella condizione dei signori e che già avevano sapienza e in soprappiù attendevano il regno di Dio. Quindi gente di fede, gente di fiducia, gente dell'Antico Testamento. Ma i pastori non erano sapienti, non erano certamente ricchi, forse non sapevano neanche leggere. In ogni caso non avevano letto il libro della legge, quello che si chiama in gergo la Torah, la legge, il libro della legge. E non avevano naturalmente o sentito parlare o meno ancora letto i testi profetici di Geremia, di Isaia. Faccio notare, se non erano i padroni dei loro greggi, perché stavano a custodire i greggi, se non erano padroni dei loro greggi, ma in questo caso difficilmente avrebbero passato le notti all'addiaccio, senza paura che qualcuno portasse via quelle poche coperte che avevano. Il fenomeno dell'emergenza fredda, no? Erano servi e perciò, secondo la condizione del tempo, non erano destinati a compiere le opere un po' più alte dell'uomo. Non potevano aspirare, liberi da necessità, alla contemplazione del testo della Torah, della legge, conoscerla. Erano legati al vincolo del lavoro della terra, erano abituati a quell'infinita ripetizione della identica fatica. Le notti si susseguivano uguali alle altre notti e non avevano niente da aspettarsi di nuovo. Forse proprio per questo erano capaci di meravigliarsi, come i bambini, erano capaci di stupore. La meraviglia non fu che fosse nato il Messia, cosa per loro di difficile comprensione, ma che fosse arrivata la pace. E la pace sapevano cos'è. Forse potevano perfino pensare che la pace significasse cessare di essere servi per essere invece figli, cioè semplicemente uomini. Ancora un interrogativo che viene spontaneo. Ma perché proprio a loro? Perché quel Messia, quel Salvatore, non nasceva nella forma di Dio. Non nasceva tra i sapienti, non nasceva come un signore. Non era uno dei loro, ma era uno di loro. Era un bambino, come quelli, i loro bambini, che anche loro i pastori nelle notti fredde sotto Betlemme talvolta mettevano a riscaldare in una mangiatoia questi loro bambini. È proprio così. Poteva annunciare la pace a un mondo dove non fossero più servi, ma vi chiamo tutti amici. ho preso uno spicchio appena dal Vangelo, basta quello, mi pare. Non parliamo adesso di Betlemme, perché là in quella terra, con tutti i muri che hanno tirato su, è la contraddizione della pace. E che fatica. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. E pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo.